100 vanni al tergo, 800 occhi in fronte, e nel corpo in sé, ma io almen ho 1000 cuore. Sovra quei vanni io merco, volo dal piano al monte. Quelle pupille io dirò, con tutti i cuor, con tutti i cuor, sospiro. Occhi, vanni, furor, cuori, amanti e sposi, qui sposi.